Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Beh, ma stupendo, cari ascoltatori, stupendo! Ben ritrovati a una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Sono anche in diretta su Facebook in video. Manera no, Manera da lunedì, il pagliaccio forse arriva da lunedì. Beh, ma che presigla fantastica. A sto punto quasi mi impone, lo dico all'Alpino in regia, con calma, senza farci prendere dal panico, ma forse dovremmo ritirare fuori l'audio della mitica signora che alla manifestazione degli arancioni, quelli diversamente vestiti, quelli vestiti come l'ANAS sulle autostrade, insomma, quelli lì, si sono presentati, quella signora che ha detto che dunque Conte ha chiamato Bill Gates, questo permetterà a Conte di mettere il mercurio nelle vene nostre, vene che sono collegate col 5G, e quindi ci trasformeremo in piccoli robot. Questo ha detto la signora. Vai Alpino, eccolo qua, risentiamola perché è Conte. Telefona Bill Gates, sì? Sulle nostre spalle, prendendo 140 milioni. Ma lui, proprio 140 milioni? Il mercurio nelle nostre vene collegate, sì? Le vene collegate. Il 5G. Dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi, ragazzi, quasi quasi lo sogno, quasi quasi un mondo così, perché è talmente distopico che quasi quasi vorrei vederlo. Va bene, vorrei anche conoscere la signora, forse no, non lo so, invitarla non credo, comunque capire esattamente il percorso della sua vita. In ogni caso, cari ascoltatori, siamo qui alle 9:09 minuti. Ho salutato l'Alpino in regia, non mi resta che salutare la nostra prode redazione di Divisi Ma Uniti, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Siamo pronti con voi, 800 24 00 24, a chiamarci. A questo numero dovete essere voi, invece a mandarci anche le presigle in audio come il nostro caro ascoltatore, a mandare i vostri commenti 349-238-6666, questo via WhatsApp e via SMS. Vai Alpino! Comunque oggi, per la precisione, 349-238-6666. Sì, anche, si può fare, 6 Milan. Vai Alpino, vai! Enthusiasm! About the future. Ah ragazzi, oggi me l'ero tenuto alla prima occasione utile, ho detto la prima volta in cui si parla sui giornali di ritorno della crisi politica, ma quando, che poi bisognerebbe dire, ma quando è che in Italia non si parla di possibile crisi di governo? Più o meno un giorno sì e un giorno anche. Comunque la prima volta che se ne parla compiutamente e con delle notizie concrete, torno a rilanciare, ho detto mi sono tenuto questo libro e vi voglio parlare di questo libro con calma. Però allora, crisi politica, secondo il giornale c'è addirittura il premier Conte che ha già preparato il nuovo partito, o i nuovi partiti, nuovi circoli, chiamateli come volete in maniera un po' più moderna. Perché? Perché anche Conte si è innamorato della politica, lui premier per caso, uso le sue stesse parole di un paio d'anni fa, come Monti premier tecnico, come altri, poi a un certo punto ti inebri dei palazzi romani, della bellezza del comando, del senso del potere, il potere indirizzare la politica di un paese, e quindi vuole rimanere a fare politica. Comunque andrà a finire questa avventura di governo, e allora attenzione, avrebbe partorito il nuovo partito o circoli. Sapete come si chiama? Con te che stai ascoltando. Conte. Con te. Beh, voglio dire, Vabbè, insomma, a volte nome nomen, il cognome aiuta. Conte, con te. Basta mettere un trattino ed ecco partorito pare il nuovo nome. Comunque, perché vi voglio parlare di questo libro? Lo faccio partendo da quello, da una parte di quello che ha detto Conte ieri in conferenza stampa, e cioè ritorna il ponte sullo stretto di Messina. Allora, andiamo per ordine. Prima sentiamo Renzi che da ex premier aveva detto: il ponte sullo stretto, ragazzi, torna il ponte sullo stretto, non ci posso credere, è tutto vero, eh? Renzi, il ponte sullo stretto di Messina, vai Alpino. Per come è messa la causa sul ponte sullo stretto, costa più non farlo che farlo. Cioè, oggi, per tutte le vicissitudini del passato, se non fai il ponte sullo stretto, lo Stato pagherà di più di quello che pagherà dovendo fare. Per questo motivo Renzi dice: a questo punto conviene farlo, perché sennò costa di più non farlo. Ragazzi, la storia del ponte sullo stretto di Messina è proprio l'emblema dell'Italia, eh? Da quanti anni è che se ne parla? Comunque, ieri Conte, parlando di tante cose, di rilancio, di cooperazione, di soldi che arriveranno dall'Unione Europea, questa poi è una roba sulla quale, se volete, si può dire qualcos'altro, un'altra, come dire, polvere negli occhi, non di Conte, ma in questo caso dell'Unione Europea. Comunque, sentiamo cosa dice Conte ieri, cosa ha detto Conte. Quando ci metteremo a un tavolo, e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo stretto. Cioè, no, io non so se vi rendete conto. Quindi si fa, non si fa, ancora adesso si discute che valuterà senza pregiudizi sedendosi a un tavolo quando arriveranno i fondi e ripartiranno i cantieri, se sarà utile o no fare il ponte sullo stretto di Messina. Ma quando oggi il presidente della regione Veneto Luca Zaia, in un'intervista al Corriere della Sera, dice: la verità è che siamo un paese mummificato, avete presente le mummie, quelle con le bende egiziane? Non vi dà proprio un'immagine perfetta, perfetta? Oggi ancora non so chi, tra le varie interviste, ho sentito dire: ora togliamo la burocrazia. Ma sono cose veramente che non ci si può più credere che vengano dette e che vengano spacciate come della droga in un crocicchio di strada sui giornali. Allora veniamo al libro, prima di venire al tema con i miei ospiti. Il libro che vi voglio suggerire è questo, lo faccio vedere anche in diretta per chi è su video su Facebook, è un libro che mi ha illuminato, è edito da Feltrinelli, è uscito da non tantissimo, purtroppo con la chiusura non ha avuto il successo che secondo me merita. Si intitola Io sono il potere. L'autore è anonimo. Per la verità, il giornalista Giuseppe Salvaggiulo ha aiutato a raccogliere e a raccontare questa storia. Sono le confessioni di un capo di gabinetto a un ministero, imprecisato perché è anonimo, e è una lettura illuminante per capire chi davvero detiene il potere in Italia. Guardate, non c'è qualunquismo, non c'è da essere antipolitici, certo, se avete un po' l'illusione che la politica sia un'arte nobile che ci guidi, forse non leggetelo perché vi fa venire un po' di acidità di stomaco. Se invece volete scoprire che le leggi in Italia perché si fanno, uno dice per qualche nobile motivo, no, ti spiega questo capo di gabinetto in forma anonima che magari si fa una legge perché il tal capo del gabinetto coltiva l'olio in Calabria e allora si deve fare quella legge, oppure si deve bloccare una legge perché l'altro capo di gabinetto ha un agriturismo, che ne so, in Veneto. E è uno spaccato, un saggio straordinario in cui si racconta, con la voce del capo di gabinetto, quali sono le regole e i segreti inconfessati dei palazzi del potere, dove conta conoscere le persone giuste e dove la frase chiave è questa. È il tipico facite a muina all'italiana, la frase chiave del libro è: il fascicolo deve sempre camminare, ma stando sempre fermo. Questa è l'Italia secondo il capo di gabinetto che ha scritto il libro Io sono il potere, come dire, i ministri passano, ma i funzionari, i burocrati rimangono e tirano le fila di tutto. Comunque, veniamo al tema che voglio affrontare. Il tema è la scuola, spesso ci torniamo. 800240024. Oggi Chiara Saraceno, che è un'importante sociologa della famiglia, sulla Stampa fa tutto un editoriale per dire che la scuola è un po' tralasciata all'ultimo dei livelli di intervento politico, il che è incredibile. Chiara Saraceno scrive che evidentemente i bambini e le famiglie, i ragazzi e le ragazze non hanno il potere dei sindacati, dei partiti, di Confindustria, di tutti coloro che si fanno sentire se non competizioni e quindi non riescono a farsi sentire in maniera chiara. E quello che mi ha colpito è la notizia riguardante, e da qui voglio partire, l'esame di maturità, e cioè non ci sono i commissari. Pare, soprattutto in Lombardia, che molti si rifiutino di rispondere alla chiamata per fare il commissario alla maturità. Voglio salutare due ospiti. Antonio Giannelli è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Giannelli, grazie. Buongiorno di Antonello, mi permetto di precisare. Sì, sì, sì, Antonello Giannelli, mi perdoni. Giuseppe Valditara, che è con noi, è un giurista, è un docente a Torino, è stato anche senatore. Buongiorno professor Valditara, grazie. Forse tra l'altro, piccola parentesi, forse quel palazzi della politica descritti da Io sono il potere, lei li ha visti, Valditara? Magari li conosco bene, anche perché poi sono stato capo dipartimento al Ministero dell'Università e della Ricerca. Ah, quindi ecco, perfetto. Ma l'ha letto questo libro? Lo leggerò perché mi sembra molto stimolante. Lo faccia, perché secondo me vedrà tante cose che lei ha vissuto da vicino, leggerà tante cose che l'ha vissuto da vicino. Allora, Antonello Giannelli, le chiedo questo: intanto si può capire quanti posti sono scoperti per la maturità e che cosa si fa adesso? Si va alla precettazione addirittura? Ovviamente si tratta di, le commissioni sono circa 13.000 in Italia, ma qualche giorno fa mancavano ancora 1.200 presidenti, quindi stiamo parlando delle presidenze di queste commissioni, che sono comunque meno del 10%. È bene dire che di questi 1.200 posti, 700 mancavano, ripeto sempre qualche giorno fa, in Lombardia. Ora, qual è la regione più colpita dal coronavirus. Allora, qual è il punto? Che i dirigenti scolastici sono obbligati a presentare la domanda, infatti l'hanno presentata, sono stati tutti nominati, e anche un certo numero di presidi o dirigenti scolastici, che dir si voglia, della scuola media, che oggi si chiama secondaria di primo grado, l'hanno pure presentata. Quindi il numero di presidi, diciamo così, normalmente utilizzato è rimasto lo stesso. Quello che è successo è che, poiché per i docenti non c'è un obbligo di presentazione della domanda, ma è facoltativo, io posso immaginare che ci sia stato un certo timore indotto dal contagio, anche perché l'età media della categoria è quella che è. Ora, e questo è un po', questo però è un tema essenziale, mi scusi Presidente, perché ieri io ho letto un accorato appello del professor Valditara, che tra l'altro ha sottoscritto con il professor Ricolfi e con altri, in tutto sono 150 docenti, insomma, e personalità, un appello a dire insomma, facciamo qualcosa per la scuola. Allora, il professor Valditara ha detto: scusate, ma se i commessi dei supermercati sono andati a lavorare sempre anche in periodi di crisi, se sono andati a lavorare i medici, gli infermieri, tutte le categorie che sono andate a lavorare, i professori, perché no? Professor Valditara, lei ha voluto porre l'accento e dire: ma che sono una categoria diversa? Io credo che ci sia un messaggio che la scuola debba lanciare, cioè il messaggio che non si può abdicare alle proprie responsabilità. Io capisco le paure, i timori, ma il governo ha garantito, almeno così stando alle dichiarazioni del ministro e all'organizzazione che si è messa in campo, le misure di sicurezza, cioè mascherine per i commissari, mascherine per gli studenti, distanziamento. Pertanto rischi di contagio sono, per quanto riguarda l'esame di maturità, pressoché inesistenti. Credo che a questo punto, se ci fosse una, tra virgolette, diserzione da parte di alcune componenti della scuola per timore del contagio, si manderebbe al paese, ai ragazzi in primo luogo, un messaggio negativo proprio dal punto di vista dello spirito educativo che invece deve animare il docente. Lei dice diserzione proprio, no? È significativo. Lei dice diserzione. Ho utilizzato questo termine tra virgolette, però certamente un insegnante che manda un certificato medico per non presentarsi ad un esame di maturità non dà una bella immagine di sé e della scuola. Questo no. Presidente Giannelli, la sicurezza è garantita? Sì. Il punto è questo. Allora, la sicurezza è garantita, è vero, però quello che si deve dire è che il termine per la presentazione delle domande era scaduto prima che venissero ritenute le misure di sicurezza. Quindi capisco che questo possa aver generato un po' di timore. Quindi assolutamente io ritengo che da parte del personale della scuola non ci sia questa tendenza alla diserzione, capisco che c'è un termine provocatorio, quello utilizzato dal professor Valditara. E allora però come se le spiega così tante rinunce, chiamiamole rinunce? Ma non ci sono rinunce, mi chiedo scusa. La domanda per sostenere l'esame come presidente è una domanda facoltativa, quindi non è una rinuncia, certo. Un obbligo. Allora come si spiega la mancanza di domande? Perché le norme di sicurezza non erano state ritenute per tempo, sono state ritenute dopo la scadenza del termine, quindi c'è stato un manco al quale si sta ponendo rimedio con una ordinanza che sostanzialmente nomina l'ufficio. Io ho capito benissimo, però se le domande andavano fatte prima e non c'erano le norme di sicurezza, adesso le norme di sicurezza ci sono, dovrebbe esserci, non dico una corsa per rimediare a queste assenze prima di domande, non dico una corsa di domande, però non ci dovremmo trovare nella situazione di dover alzare i telefoni e dire venga a cercarli, no? Non dovremmo. Il problema è in corso di soluzione, bisogna vederlo nella sua evoluzione dinamica, si sta risolvendo. Ci stava risolvendo anche prima, chiaramente siamo ormai a 10 giorni prima, quindi bisogna muoversi. Sì. Io vorrei capire, professor Valditara, la scuola è centrale? Lei che ha vissuto la politica sia da senatore sia poi da capo dipartimento, molti dicono la scuola non è stata per nulla centrale, anzi è stata trattata e viene trattata come un settore, come se fosse un settore non importante, mentre lo sappiamo benissimo che è la chiave di un paese. Per lei, professor Valditara, è così? Cioè, la politica come sta reagendo sul tema scuola? Dunque, io ritengo che la scuola sia rimasta e anche oggi purtroppo poco centrale con riferimento alle attenzioni della politica. Faccio alcuni esempi molto concreti per quanto riguarda la situazione attuale. Innanzitutto, le decisioni assunte dal ministro sono state molto tardive, lo diceva anche il preside poco fa. Le famiglie sono rimaste mesi senza sapere quale sarebbe stato il destino dei propri figli. È abbastanza curioso che in Gran Bretagna abbiano aperto prima le scuole e poi i pub, qui invece si è fatto esattamente il contrario. È abbastanza curioso che si inizierà un anno scolastico con ancora molta confusione, tant'è vero che l'Associazione Nazionale Presidi ha denunciato alcune mancanze che hanno caratterizzato l'azione del governo proprio in vista della riapertura dell'anno scolastico. Voglio anche sottolineare come il dirigente scolastico rischi parecchio perché con una insensata normativa che è stata introdotta da questo governo e l'equiparazione del Covid della malattia da Covid all'infortunio sul lavoro, vi sono rischi addirittura penali, quando sappiamo perfettamente che ci possono essere delle casualità non controllabili. Poi voglio anche aggiungere che anche dal punto di vista della programmazione del reclutamento, la politica è stata gravemente assente. Vi è stata una mancanza di strategia, ma soprattutto anche una mancanza di serietà complessiva. Penso anche alle nuove norme che dovrebbero mettere in cattedra molti precari. Io sono convinto che ci debba essere sempre una seria valutazione del merito, perché noi non dobbiamo precostituire posti di lavoro, dobbiamo garantire un successo formativo ai nostri giovani. Sì, e quindi questo è il punto tema del merito, sì, è un'altra cosa, se mi permette, come la burocrazia, cioè valutare come il merito in Italia, certo. È come abbattiamo la burocrazia, nel senso che è stupendo come principio. Poi in Italia si riesce a fare, però guardi, su questo aspetto della responsabilità penale abbiamo proprio Giannelli e io le voglio chiedere, Giannelli, cosa succederà a settembre. Abbiamo capito adesso che sembra chiara la linea, basta didattica online, vogliamo riportare tutti gli studenti nelle scuole a settembre. A settembre voi presidi siete tranquilli, Giannelli, dal punto di vista della responsabilità penale se dovesse succedere un caso di coronavirus? Beh, allora, ovviamente no, ha detto bene il professor Valditara, abbiamo denunciato appunto i ritardi, tra l'altro ancora non abbiamo indicazioni chiare su quel che si deve fare a settembre, quindi diventa un po' difficile organizzare la vita in una scuola. Sull'aspetto della responsabilità penale abbiamo chiesto proprio un ripensamento, perché è assurdo che un dirigente scolastico possa trovarsi coinvolto in forme di responsabilità oggettive o paraoggettive, perché se succede qualcosa, tipo un contagio da coronavirus, lì potrebbe addirittura doverne rispondere davanti a un tribunale della Repubblica. Quindi chiediamo da questo punto di vista una revisione di questa responsabilità. Ci sarà, per quanto riguarda, ci sarà questa revisione, nel senso, avete avuto dal Ministero qualche tipo abbiamo di avuto segnali positivi di interessamento, naturalmente stiamo aspettando le proposte concrete e l'approvazione in Parlamento di norme di questo tipo, che ci tengo a dirlo, non hanno nulla a che fare con i cosiddetti scudi penali, perché lo scudo penale è qualcosa che si applica o che si vara dopo che qualcuno ha commesso dei reati, perché comunque è utile alla società, alla collettività, una forma di recupero, ma nel nostro caso dei presidi, insomma, non mi sembra proprio il caso di equipararli a chi commette reati, persone, certo, che vogliono organizzare al meglio la vita nelle scuole con indicazioni senza rischiare di finire in carcere, certo. Questo è il tema. Va bene, allora facciamo così, per il momento io mi devo fermare, c'è la pubblicità, chissà, vedremo cosa succede sul fronte scuola, spero davvero che anche l'esame di maturità si possa svolgere con tutte le persone che vengono o chiamate, spero non si debba arrivare alla precettazione. Il presidente Antonello Giannelli ci ha detto che si sta più o meno risolvendo la situazione, speriamo davvero, mancano pochi giorni, siamo un po' in ritardo come su tante cose, ma questo coronavirus ci ha un po' sballati. Dai, pensiamo positivo, ringrazio Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi e il professor Giuseppe Valditara, che insegna all'Università di Torino, è stato senatore, prima Alleanza Nazionale, poi Future Libertà, e ha firmato con altri professori, Luca Ricolfi ed altri, un appello al governo per la riapertura in sicurezza delle scuole. Ci fermiamo un attimo, tra poco arriva Vestagliona Manera e con lui torna un ospite che avevamo già avuto, è un ricercatore, un professore universitario, si chiama Marco Tamietto, e ricordate forse la vicenda degli esperimenti scientifici sui macachi. C'è un'importante sentenza che dà ragione al professor Tamietto, che aveva subito anche delle minacce fisiche, e con lui torniamo a parlare di questo tema. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, sperando che questa sia l'occasione giusta di passare almeno un mio messaggio. Detto questo, la burocrazia in Italia esiste ed è anche poca, non si può togliere perché gli italiani la meritano, la vogliono e non se ne può fare a meno in un paese di corrotti e di magna magna come l'Italia. Ma Renzi parla di fare il ponte sullo stretto, ma ok, il ponte può anche andare bene, ma prima bisogna fare strutture nelle scuole che sono, stanno cadendo a pezzi. Quindi prima le scuole, dopo il ponte eventualmente. Ciao Milan, ma con te è un plagio. Sbaglio, c'è già un'assicurazione che si chiama con te. Devo ancora capire con esattezza chi sono i più imbecilli. Quelli lì che dicono che parlano in quella maniera nelle piazze o voi che ogni giorno li fate sentire alla radio, in televisione, eccetera. Va bene, sciogliamo questo nodo gordiano dicendo che il più imbecille di tutti è Vestaglione Manera, che è lui che mi aizza, mi istiga, dice falla sentire quella là delle piazze, falli sentire quelli lì, dai mandalo in onda, io non vorrei, mandalo in onda, e lui mi fa sentire, mi spinge a fare delle cose che poi dopo no. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ti ho abbattuto così subito. Non combatti, no, oggi, ti arrendi al nemico. No, volevo farti notare che prima quando parlavi avevi un problema di risucchio, si sentiva molto un risucchio mentre parlavi. Ti ringrazio. Non era una bella qualità. Allora, prima di prendere prima di prendere in giro me perché ancora non uso Facebook in diretta, io lo faccio perché poi quando vado in onda voglio essere preciso dal punto di vista tecnico, cioè lui non sapeva niente, cari ascoltatori, non sapeva niente, ma durante la pubblicità con l'Alpino in regia abbiamo sistemato tutto, perché effettivamente non è che c'era, era una qualità, c'era infima, una sensibilità. Era fastidioso da ascoltare, era fastidioso da ascoltare. Sei veramente un bastardo. Allora, invece di dire non è ancora in dire non è ancora in diretta, io lo faccio perché poi quando vado in onda in diretta su Facebook voglio essere dal punto di vista tecnico perfetto, non come te che vai in onda un po' alla carlona diciamo così. Puoi fare il fenomeno, ma ecco. Abbiamo sistemato Jimmy il fenomeno, abbiamo sistemato questo problema con l'Alpino durante la regia, lui ascoltava e ha preso spunto, non sapeva niente di questa storia del risucchio, niente sapeva, preso spunto per attaccarmi. Questo lo dici tu. Senti, sai che Sandro Fortunati ti attende, allora, come sa il nostro tecnico delle infrastrutture. Sì, mi attrezzerò adesso, non so se per lunedì o magari mercoledì. Sì, adesso tra qualche giorno mi attrezzerò. Sempre, ho avuto da fare delle cose. Sì, ho avuto da fare delle cose. Ho capito come va a finire. Non avremo il video di Leonardo Manera, mettetevi in pace, il cuore in pace, cari ascoltatori, non ci sarà mai il video su Facebook. Allora, una volta così, una volta dovremo anche ricordare il perché del pagliaccio senza G, ma detto pagliaccio, dillo, ma adesso in altro caso. Perché quando facevo ancora il clown, facevo le cose, le feste per bambini, l'ultima che feci mi ero stancato di farle, dopo 10 minuti mandai i bambini a giocare in giardino e io me ne andai facendo solo 10 minuti. La mattina dopo andai a farmi pagare in agenzia e proprio in quel momento telefonò la mamma del bambino che aveva avuto una festa di soli 10 minuti e disse questa mamma alla responsabile agenzia, disse ieri il suo pagliaccio in modo dispregiativo ha fatto solo 10 minuti e poi se n'è andato, e quindi era un modo dispregiativo ulteriormente dispregiativo. Dai, sono le 9:37 minuti. Ora vogliamo salutare un ospite che torna con noi perché c'è stata una sentenza del TAR del Lazio. Si tratta di Marco Tamietto, che insegna neuroscienze al Dipartimento di Psicologia all'Università di Torino. Buongiorno Tamietto, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Marco Tamietto è un professore che guida uno studio. Ha già subito delle problematiche personali, erano state raccontate, addirittura minacce di morte. Perché? Perché in questo studio fate anche degli studi sui macachi, sul cervello dei macachi. E c'era stata una sospensione su un ricorso della LAV, la Lega Antivivisezione, ora il TAR del Lazio ha detto potete riprendere questi studi. Intanto ci spiega perché, che studi sono e perché studiate il cervello dei macachi, professor Tamietto? Sì, gli studi si occupano del sistema visivo sostanzialmente e di pazienti che hanno un problema alla vista, una cecità totale o parziale, dovuta non a un problema all'occhio ma a una lesione al cervello. E l'obiettivo degli studi è sostanzialmente conoscere meglio i meccanismi di plasticità e di recupero e promuoverli in ordine a promuovere appunto un recupero parziale. della vista. Quindi si studiano i cervelli dei macachi, immagino perché sono simili ai cervelli dell'uomo, per poi portare in futuro un beneficio agli esseri umani. Sì, esatto, abbiamo bisogno di un modello che sia abbastanza simile al sistema umano e che ci consenta di studiare appunto relazioni complesse tra concetti e fenomeni psicologici come la consapevolezza visiva e il loro substrato neurale. Ci sono stati tanti attacchi, ci sono state tante. Lei come vive adesso dal punto di vista personale? Si sono placate un po' le acque? Sì, diciamo, purtroppo la vicenda sanitaria che è stato colpito ci ha anche, come dire, dato in qualche modo una finestra su che cos'è vivere in un mondo senza i vaccini, perché poi, diciamo, il milieu culturale in cui tutto questo si alimenta è spesso intersecato da questi aspetti ideologici antiscientifici pregiudizialmente, quindi Novax, quindi questo ha un attimo attenuato la tensione. Certo, diciamo, è un romanzo a feuilleton, noi di tanto ci sentiamo e ci raccontiamo nuove puntate. Sì, anche perché guardi, ce n'è un'altra, ovviamente la LAV ha detto ricorreremo al Consiglio di Stato, c'è sempre un grado di giudizio in Italia che può permettere di fare un ricorso, quindi dopo il TAR del Lazio ci sarà il Consiglio di Stato che si pronuncia. Questo è il tema, io ho già detto in tutte le serie possibili che questo progetto si farà perché è stato valutato. Noi abbiamo l'unico torto di aver proposto un progetto al meglio delle nostre conoscenze nell'interesse della ricerca e della cura. Dopodiché tutti gli organismi indipendenti e competenti sia a livello europeo che nazionale l'hanno valutato positivamente e l'hanno sostenuto. Il tema è solo se si riesce a fare in Italia in un contesto accettabile da un punto di vista normativo e della sicurezza delle persone, oppure se non sarà possibile e dovremo portare fuori i ragazzi che abbiamo riportato in Italia e dovremo farlo impiegando non un animale in più, ma neanche meno di quello che gli organismi scientifici hanno accettato che facessi. Sì. Questo è il tema, sì. Non so se si farà in Italia. Non si farà in Italia, lei dice nel caso si potrà andare anche in nazioni europee a farlo. Ovviamente qui Leonardo c'è il grande tema, non lo so, sul quale io non so, le posizioni sono chiare. C'è chi dice che non bisogna torcere un capello a un animale per far progredire la scienza. C'è anche chi dice, Tamietto, che ora si può fare ricerca scientifica senza assolutamente utilizzare la sperimentazione sugli animali. Su questo ci eravamo già confrontati. Però pare che non sia vero questo. Un certo grado di sperimentazione o la si fa sugli esseri umani o la si fa su degli animali. Ecco, prima di, diciamo, no. Che questa è l'alternativa. Dopodiché è vero che alcune cose si possono fare e di fatto abbiamo, come dire, la legge europea più restrittiva in tal senso, quindi quando è possibile evitarlo, e a volte lo è, va evitato. Il punto è che non è possibile evitarlo sempre. Non tutto si può studiare in un vetrino, non tutto si può studiare in un computer, quando lo si può fare, ben venga. Io peraltro l'ho fatto per sostanzialmente quasi tutta la mia carriera, ma ci sono alcune domande di conoscenza, alcuni step ulteriori dove appunto o si testa direttamente sulle persone se è una procedura efficace, oppure forse io che sono specialista preferisco ancora non mettere sullo stesso piano, come dire, la vita e la salute di una persona con quella di un topolino o con quella di un primate. Questo è il grande tema. Sono d'accordo con lei, che non vuol dire voler male ai macachi o voler male agli animali. Si tratta di dire allo stesso valore. La vita di un uomo vale come quella di un macaco, fondamentalmente. Esatto, questo. È un tema magari etico. Magari c'è chi la pensa così, anche legittimamente la si può anche pensare così. Tantissimi la pensano così, sicuramente. Può essere utile contestualizzare anche i numeri. Lei consideri che per ogni 1000 animali impiegati a uso alimentare, e noi siamo già una nazione, come dire, che fa un impiego corretto, direi, un solo animale è utilizzato a scopo di ricerca. Quindi c'è una limitazione molto stretta e molto corretta anche. Quindi lei dice andrebbero attaccati tra virgolette più i carnivori, quelli che mangiano le bistecche, piuttosto che chi fa scienza. Non andrebbe attaccato nessuno, perché sono sulla mia pelle cosa vuol dire essere, come dire, additato a oggetto di attacchi. però bisogna riflettere su però secondo logica, sì, secondo sì, logica secondo cioè, logica punto, chi attacca come dire, lei dovrebbe attaccare di più qualsiasi allevatore esatto. Dovrebbe essere arrestato come dire per induzione in schiavitù, qualsiasi macellaio dovrebbe essere arrestato per contrabbando d'organi, per omicidio, come dire, leggiamo nel contesto che cosa vuol dire poi applicare una logica estrema antispecista, ecco. Sì, effettivamente lei dice non si capisce perché lo scienziato che tra l'altro fa degli studi per progredire dal punto di vista scientifico per gli esseri umani e utilizza molti meno animali di quanto un allevatore non ne mandi al macello, un macellaio non ne venda. Ma guardi, non è che tutto viene fatto a logica, ci sono dei campi, forse sa cosa, dove in passato sono stati fatte delle cose sbagliate, degli orrori a cui è stata posta fine con la legge, e allora si scontano un po' o delle cose del passato e delle campagne che sono più facili da portare avanti mediaticamente, no? Lei si immagina uno che si sveglia e dice arrestiamo tutti i macellai, non credo che avrebbe grande riscontro dal punto di vista mediatico, Tamietto. Il tema è che come dire, fare i conti in modo razionale con la realtà è esattamente uno dei doni che l'approccio scientifico ci dà, compreso il fatto di confrontarci con un grado di incertezza e con un grado di errore, ma avendo gli strumenti per poter leggere la realtà e per poterla interpretare e per poter modificare il nostro rapporto. Tutto il resto è diciamo molto meno fruttuoso, nulla è perfetto ma è molto meno fruttuoso. Va bene. Allora, di quanto si è ridotta la sperimentazione sugli animali? Cioè, io immagino che nei decenni sia diventata molto meno di quanto era prima. Sì, si è molto ridotta e siamo, ripeto, anche una nazione da questo punto di vista molto attenta. L'Inghilterra utilizza 5 volte gli animali che utilizziamo noi, la Germania utilizza circa 4 volte gli animali che utilizziamo noi. Utilizziamo praticamente gli stessi animali che utilizza l'Olanda, che è grossa diciamo come una regione italiana, quindi certamente quando si fa riferimento all'Italia rispetto all'estero come un inferno in cui gli animali vengono torturati e massacrati è chiaramente una sciocchezza, ma ho imparato che come dire, chiedere ad alcune categorie di persone di osservare la realtà oggettivamente come chiedere a Giovanna d'Arco di fare la legna per il falò, ecco, semplicemente impossibile. Va bene, noi professore la ringraziamo, ripeto, Marco Tamietto è ordinario di neuroscienze al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. La notizia è che il TAR del Lazio ha detto si può ripartire con gli esperimenti sui macachi. La LAV, Lega Antivivisezione, ha fatto ricorso, farà ricorso al Consiglio di Stato, è l'ennesima puntata, come si dice, di questo feuilleton. Vediamo il prossimo. Manera, scrive un ascoltatore, è radiofonicamente perfetto. Ecco, è questo avverbio radiofonicamente che spiega tutto. Ma perché non mi conosce di persona, altrimenti ci sarebbe un'estensione dell'aggettivo anche alla persona. Dell'avverbio. Già io una volta ho detto aggettivo, invece è avverbio. Mamma mia, sono stato inseguito da un professore di lettere dicendo lei ha detto che tipo veramente è una radiofonicamente. Io dicevo perfetto. Ah, tu perfetto. Certo. Vabbè, insomma, l'estensione. Ma se sei amaro, ma se sei misantropo, questo ce l'ha detto ieri anche Gianna Schelotto. Sì, ce l'ha detto. Ma questi sono tutti luoghi comuni che vengono portati avanti per il tuo sollazzo. Ti vuoi sollazzare così, no? La mattina non sai cosa fare, ma sì, sollazziamoci in questo modo. Lascia stare con questi termini sollazzo che poi la gente fa le rime baciate. Dai, andiamo. Salutiamo Boris Sollazzo anche. Sì, esatto, salutiamo Boris Sollazzo, grande. Vai col traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao Bonetti, sono Claudio di Bologna. Per lo spettacolo del 30 luglio, se vuoi, se sei ospite in albergo a 10 minuti dal fico, basta che mi dai, non so, una ventina di biglietti. No, scherzo, dai, bastano 3 o 4. Ciao. ci trasformeranno tutti in uomini termometro con display 5G e mercurio nel sangue. Maledetti. C'è sotto troppa brutte cose, schiavitù, robottismo umano, non lo voglio più avere questo futuro. Ma è sempre lei? È sempre lei, il robottismo, con, però... è come il pagliaccio, il robottismo. Cosa c'è? Cosa stai dicendo però? Dai, prego, difendilo. No, stavo dicendo che alla fine chi ha un'opinione alternativa viene sempre deriso, non sempre no, le opinioni alternative dai. Sono state... Prendi Galileo, no. Galileo. Io questa signora la paragono a Galileo, posso paragonarla a Galileo? No, sì, fai quello che vuoi. Sì, per cioè, me no, la signora come Galileo questo... Galilei. No. Le opinioni, sì. Questo lo pensa lei, questo lo pensa lei, ma guardi, no, veramente... Non lo penso. È sempre no, sano avere delle opinioni alternative, altrimenti saremo ancora sì. Col sistema. Ecco, guarda che però 2 più 2 fa 4. Questo lo pensa lei, cioè, il robotismo. Avere delle cioè, opinioni il mercurio critiche. Nelle vene che sono collegate col 5G e diventiamo dei robot. Ma perché? Andiamo a verificare. Guarda, io veramente Galileo. Allora, dai, andiamo a verificare. Dai, guarda. Ma sei serio? Certo, sì. Vabbè, dai, vai, a te il microfono. Allora, ieri il Premier Conte è tornato a parlare, lo dicevi anche tu, del ponte sullo stretto di Messina. Al di là del fatto che prima o poi questo ponte si faccia, il ponte è appunto uno degli argomenti che ciclicamente tornano nella nostra vita. Io ricordo che se ne parla da sempre. Ho 53 anni, ricordo il primo giorno di scuola, quando mia madre mi accompagnò col mio grembiulino nero davanti al portone d'ingresso e contemporaneamente sui mass media si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo la finale dei mondiali di calcio del 74, Germania-Olanda 2-1 e in Italia si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo quando andavo da mio zio Vasco a vedere in TV giochi senza frontiere e si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo quando prendemmo un cane che chiamai Cochis in omaggio al capo degli Apaci e si parlava del ponte sullo stretto. Poi successero molte altre cose nella mia vita privata e in Italia, le spalline degli anni 80, Sabrina Salerno, il drive-in a Italia 1 e anche cose drammatiche, per esempio l'inizio del Grande Fratello, Fatih Terim allenatore del Milan, i Jalis che vinsero il Festival di Sanremo e il dibattito sul ponte e sullo stretto non ci ha mai abbandonato. Ormai il dibattito sul ponte sullo stretto è diventato come uno di famiglia, è come un parente lontano, si sa che c'è e si sa che ogni tanto quel dibattito torna, come un parente che vedi solo a Natale, come uno zio che è andato a vivere all'estero e ogni tanto si fa vivo, fa parte della nostra tradizione italiana. Oltre che festeggiare Natale, Pasqua, il 25 aprile, il 2 giugno, almeno per affetto sarebbe utile istituire il giorno del dibattito sul ponte sullo stretto. Sappiamo che non si farà mai quel ponte, però ogni tanto è bello parlarne, ci siamo affezionati e se sparisse per sempre in fondo ci dispiacerebbe. E allora appunto istituiamo una giornata in cui per legge se ne debba parlare. A scuola si potrebbe dire, bambini, oggi è il giorno del dibattito sul ponte sullo stretto. E allora si fa il modellino in cartapesta, si tirano fuori vecchie proposte e preventivi, analisi costi-benefici, magari ripescando l'ex ministro Toninelli, che di analisi costi-benefici ci ha riempito le orecchie fino a qualche mese fa. E poi sempre a scuola analisi correlate, tipo chi sono i nuotatori che hanno attraversato lo stretto, quali pesci lo popolano, quali correnti si possono trovare, temperatura dell'acqua e attese medie all'imbarco dei traghetti d'estate a Villa San Giovanni. Il dibattito sul ponte sullo stretto è uno specifico dell'Italia e non perché lo stretto di Messina si trova in Italia. È uno specifico dell'Italia perché se ne parla da anni, da lustri, da decenni, si parla di una cosa che non si realizzerà mai e solo in Italia può succedere qualcosa di questo tipo, ma non è l'unica. Ci sono anche altre utopie di cui si parla in continuazione e che non si realizzeranno mai, per esempio il risanamento di Alitalia, la spending review, la tranquillità sentimentale di Albano. Tutti argomenti che ci tormentano da sempre e che ciclicamente tornano a galla. Una volta mi infastidivano, adesso invece mi sono abituato e se mancassero in fondo ci resterei male. Si sa, ci si abitua a tutto, anche e soprattutto alle cose peggiori, e se ne diventa dipendenti. Qualcuno la chiama sindrome di Stoccolma, a mio parere la si potrebbe chiamare anche sindrome del dibattito sul ponte sullo stretto. In fondo si tratta della stessa cosa. Eh sì, caro Leonardo, il ponte, mi chiamo Leonardo, sì, esatto. Sì. No, ma non sapevo se dire granito, vestagliona, lentopede, Bonetti, avevo tante alternative. Comunque, vabbè, il ponte sullo stretto, chissà, si farà. Adesso ci siederemo a un tavolo, valuteremo senza pregiudizi. Alessandro, forse anche senza decidere. Alessandro da Modena, buongiorno Alessandro. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, no, io ho sentito la parte iniziale della trasmissione, quindi bene, volevo intervenire su i due punti. Quello del libro, mi sembra di aver capito, Io sono il potere, sì, si chiama. Io sono il potere, un saggio, benissimo, stupendo, lo faccio rivedere. Eccolo qua. Io, prego, non l'ho letto, ma sono più di 20 anni che sono convinto di questa cosa, senza aver appartenuto ai palazzi. Io sono colpito eventualmente dal fatto che gli italiani non l'abbiano ancora capito. La stragrande maggioranza dei problemi di questo paese deriva dall'apparato burocratico di medio-alto livello di questo paese, con eventualmente la compiacenza del basso livello che non viene controllata sull'efficienza e sulla produttività. Quindi sì, i grandi problemi derivano proprio da lì, perché i politici, come ha detto lei, passano, i burocrati rimangono fino alla fine, poi vanno in pensione con delle pensioni strepitose anche a spese dei contribuenti. E qui un burocrate, sì, racconta dal di dentro. Sì, sì. Ma è chiarissimo, dovrebbero averlo capito gli italiani da almeno 20 anni che è questo il problema grosso. Per quanto riguarda la scuola, invece, sono anche lì allibito dal fatto che mezza Italia lavora, mezzo magari no, ma insomma tutta la parte della sanità, medici, infermieri, farmacisti, tutta la filiera dell'alimentazione, tutti i trasporti, tutta la giustizia, quantomeno le forze dell'ordine, e non voglio dimenticare nessuno. Stranamente, visto che l'istruzione è altrettanto importante o quasi altrettanto importante della sanità, invece la distruzione è sparita, ha abdicato il suo ruolo, non si sono fatti sentire i professori, nessuno. Io ho la netta sensazione che il nostro ministro dell'istruzione non abbia voluto inimicarsi i professori, sì, e i sindacati della scuola. Tenga presente che in Europa quasi tutti i paesi hanno aperto. Il mese di marzo era ovvio che doveva esserci un lockdown, il mese di aprile forse, ma tutte le scuole d'Europa hanno aperto, non si possono mandare i bambini dai nonni. Tutte le scuole d'Europa no, però Alessandro ne approfitto per leggere uno stralcio di Io sono al potere. Senti qui Leonardo, quando c'era Elsa Fornero ministro, quindi si parla del governo, Monti, no? Allora, la finanziaria, Elsa Fornero si scontrò praticamente con tutti. Quando propose di ridurre i privilegi pensionistici dei militari, la chiamò la ministra dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. No, non possiamo, Elsa, pensa al sangue di questi ragazzi. Scusa, che c'entra il sangue con i rendimenti pensionistici? La norma non passò. E quando Elsa Fornero provò a aumentare l'aliquota contributiva per i coltivatori diretti, da Palazzo Chigi la chiamarono. Non è possibile. E perché? Osò chiedere la ministra. Perché Fortunato è coltivatore diretto in Calabria. Enzo Fortunato, ventennale capo di gabinetto al Ministero dell'Economia, produce olio nella tenuta di famiglia nella natia Calabria. La Fornero non solo non lo sapeva, ma non si capacitava dell'obiezione. Invece il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Catricalà, lo sapeva benissimo, perché è calabrese come Fortunato e ragiona da capo di gabinetto. Ecco, questo è uno stralcio, Leonardo, ti ho letto 10 righe. Ma è tutto così questo saggio, per dire, secondo l'autore, per carità, chi comanda in Italia e chi tira le fila del potere. In teoria all'inizio i 5 Stelle hanno avuto anche fortuna politica, bravo, perché in teoria dovevano essere distaccati da tutto quello che c'era in precedenza, quindi liberi. Sono raccontati dal di dentro anche loro molto bene in questo saggio, per carità, non è la Bibbia adesso, è un libro, però è un racconto anonimo di un burocrate che vede tutto. Dai, dobbiamo andare al giornale radio, poi la seconda ora. Uno, nessuno, 100 Milan. Tu Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. Amici, stamattina ho aperto la mia SRL. Un'avventura che mette la pelle d'oca. Fatemi gli auguri, dai, per favore. Do you want to go to the seaside? Vi sbagliate. Mercurio è 5G, non ti trasforma in robot, ma nell'incredibile Hulk. La prima volta che sono d'accordo con Manera. Milan, per fare giornalista come fai te, io la testa la butterei dalla finestra. In tutto questo periodo non c'è stato un giorno in cui tu non abbia invitato un virologo, uno scienziato che esprimesse dei pareri discordanti dalla vicenda Covid-19. Vergognati, vai. Leo, figurati, no? Fa tutto il figo, l'intelligentone con te, no? Sto smargiasso di Milan. E poi parlando del libro dei poteri forti dice che in Calabria coltivano l'olio, capito? Perché l'olio si pianta e cresce. Bravo Milan, bravo. E poi prendetela con Leo. Allora ragazzi, ma è un massacro. Ma cos'è il partito dei parenti, no? Quello che mi accusa non so fare il giornalista perché invito i virologi. Cosa dovrei fare? No, ha detto un'altra cosa. Difendimi, no, ha detto un'altra cosa. Invito no, virologi che dicono cose diverse. E cosa è? Colpa mia. Non è colpa mia. No, dice che sei stato un po' un complottista, che praticamente critica i complottisti, no, ma secondo no, lui sei buttare, stato complottista. No, ha detto devi buttare la tessera da giornalista. Ha detto così, perché in questi mesi ha invitato virologi che dicevano ognuno una cosa diversa dall'altra. Scusate, che accusa di mancanza di giornalismo è? Ti inviterei a risentire il messaggio, era un po' diverso, secondo me. Comunque, va bene, non importa. Ed è anche vero che l'olio l'ulivo. Non sgorga. Sì, l'ulivo, ho capito, tu hai detto ma ho letto un libro! Ma ho letto un libro! Cosa devo leggere? Non è che l'olio sgorga così dalla sorgente. Non è che l'olio sgorga dalla sorgente come il Po, no? Ma sì, si dice coltiva olio, ragazzi, per dire coltiva l'ulivo e fa l'olio. Vabbè, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Va bene. Siamo di fronte adesso al direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari alla Cattolica, quindi rientriamo in noi. Professor Americo Cicchetti, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, noi l'abbiamo chiamata perché lei che è anche ordinario, insegna organizzazione aziendale alla Cattolica, avete fatto una stima precisa con dei conti di titolo quanto ci è costato il coronavirus. Ovviamente insomma il titolo forse è un po' inefficace, però ci spieghi meglio lei. Beh sì, noi abbiamo fatto i conti di quanto è costata la gestione dei pazienti per il coronavirus per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi devo dire è una piccola porzione se immaginiamo, no, l'enorme impatto economico che comunque stiamo subendo per l'economia generale. Però comunque quanto è costato al Servizio Sanitario Nazionale? Guardi, al momento solamente per la parte ospedaliera è costato circa 1.350 milioni, di cui però un terzo riguarda proprio le spese sostenute dalla regione Lombardia, e questi calcoli sono stati fatti prendendo in considerazione il tipo di rimborso che viene dato agli ospedali per pazienti che appunto avevano preso il virus, e quindi per il tipo di assistenza che è stata prestata. Quindi sono valori da rifare. Un miliardo e quattro. Ma vi ha stupito questa cifra? È in linea? Cioè è una cifra che ci deve far sobbalzare? Guardi, oppure ci deve fare che tipo di considerazione? Guardi, per capire quanto qual è questo, che tipo di valore è, lo dobbiamo confrontare con quello che non è stato fatto. Cioè, nello stesso periodo, mentre giustamente trattavamo i pazienti in emergenza per il coronavirus, chiaramente tante altre persone non sono andate in ospedale per fare interventi chirurgici programmati e attività programmata. Ebbene, quindi da quel punto di vista abbiamo risparmiato, sì, dal punto di vista delle tariffe pagate dal Servizio Sanitario delle Regioni agli ospedali, di fatto abbiamo risparmiato. Ebbene, guardando quello che erano stati gli stessi mesi degli anni precedenti, in particolare dell'ultimo in cui abbiamo i dati completi, che è il 2018, dovremmo aver perso intorno agli 860.000 ricoveri, che vuol dire 520.000 interventi chirurgici. Questi ad un valore medio che abbiamo stimato prendendo i dati del Ministero della Salute, che è circa 3.800 euro, fa 3,3 miliardi. Quindi in buona sostanza non abbiamo fatto attività per un valore pari a 3,3 miliardi e abbiamo speso invece per fare attività sui pazienti Covid 1,3 miliardi. Quella differenza, che sono circa 2 miliardi, chiaramente non è risparmio, come dire, perché tenete conto che ci sono molti, molti costi fissi, quindi questi sono i valori da risparmi. Però non c'è dubbio, cioè il ragionamento secondo me che va fatto è questo. Quella differenza di 2 miliardi è una differenza di 2 miliardi che non è andata in salute dei cittadini. Quindi la conseguenza che stiamo vedendo oggi, sì, continuano a uscire ogni giorno degli studi nuovi italiani che ci mostrano quali sono i pazienti che non sono andati in ospedale e quali sono gli effetti sulla loro salute. Questo è, come dire, la sfida di oggi, che il Ministero della Salute ha compreso, perché proprio l'altro ieri ha fatto uscire una circolare dove suggerisce alle regioni di fare una riprogrammazione di tutte queste attività, sì, sì, e anche le regioni si devono impegnare, ma sarà una bella sfida, non dico che è come quella che abbiamo passato. No, no, ma è chiaro, però se si è capito bene, e non voglio ritirare in ballo la questione, le polemiche, lo abbiamo ospitato anche noi, Zangrillo, abbiamo ospitato il professor Remuzzi, sì, non è qui la questione di dire il virus sta calando, no, no, no, però no, sicuramente la minore... quello che voglio dire è che la minore pressione sugli ospedali, sulle strutture da parte dei malati di coronavirus adesso permetterà di ridare centralità a tutte quelle patologie che sono state inevitabilmente per il momento trascurate, no? E quindi riprogrammare tutto. Tra l'altro anche trascurate da parte dei pazienti stessi, perché c'erano pazienti anche con patologie gravi che per paura di prendere il coronavirus stavano a casa, insomma non andavano a figurarsi se vado in ospedale. Anche questo è testimoniato da studi che stanno uscendo, insomma, qual è effettivamente, da dove deriva l'effetto, quanto è stato il sistema che non è riuscito a cogliere, quanto invece è stata proprio la scelta libera del paziente di non andare in ospedale. Molto spesso è così, sono i pazienti, giustamente tra virgolette, non si fidavano. Certo, qualcuno ha giocato anche sulla propria salute, quindi come la paura poi impatta, insomma, poi pensate tutte le attività anche di prevenzione, tipo sono gli screening si sono fermati e purtroppo negli effetti di questo blocco li vedremo, insomma, fra qualche mese qualche anno. No, però ringraziamo professor Cicchetti, perché a partire da questo titolo che abbiamo letto, 1,350 miliardi è costata al sistema sanitario finora la gestione dei pazienti coronavirus, però poi analizzando così si capisce che al di là della cifra che fa saltare sulla sedia, insomma, ci sono tante sfaccettature di cui tenere conto. Noi la ringraziamo, ripeto, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari alla Cattolica di Milano. Adesso andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi avremo con noi Ferruccio De Bortoli, perché in qualità di presidente della Vidas, che è un ente molto importante, conosciuto soprattutto a Milano, ma non solo, che oggi festeggia anche una ricorrenza importante. E poi dopo, Leonardo, se vuoi ti leggerò un altro pezzettino del libro Io sono il potere, perché sento che ti sei appassionato. Mi dici prima che lo stavi già comprando, perché ovviamente non lo comprerei volentieri. Sì, lo so. Puoi farlo. Devo valutare bene l'investimento. Sì, come un cuneo, un'amarezza e una durezza, una freddezza tra di noi che sembriamo Di Maio e Salvini all'epoca della crisi di governo. No. Ho detto che lo comprerei volentieri, devo valutare bene l'investimento. Con frasi secche, monosillabiche, cioè molto dure. Con la mascella serrata. Sei molto arrabbiato con me. Andiamo al traffico. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ti devi vergognare, hai invitato i virologi e gli scienziati, perché non hai invitato i macellai, eh? E gli idraulici che hanno studiato su Google? Ma come cavolo si fa a pensare che nella scienza uno dica il contrario? Non è politica, non è politica, mettetevelo nella testa, non è democrazia! Perché insomma, se no tutti a favore di Leonardo Manera, io mi sentivo un po' abbattuto. Va bene, devo fare una precisazione. Allora, l'Alta Scuola di Economia e Management e Sistemi Sanitari, la Cattolica di Roma, non la Cattolica di Milano, è il professor Americo Cicchetti che è stato con noi fino a poco fa. Ora però, caro Leonardo, allora io devo dire personalmente, dico una cosa personale, io da tanti anni, da quando gli operatori della Vidas si occuparono di mio padre, da allora ho fatto questa scelta, do la mia quota sulla dichiarazione dei redditi. Sapete che si può fare questa scelta alla Vidas, perché è un'associazione a cui sono rimasto legato profondamente per questa vicenda personale, ma ci permette di parlare di quello che oggi succede, perché c'è una serata particolare, ovviamente sui social della Vidas, una serata in cui si celebra un anno dalla nascita di Casa Sollievo Bimbi di Vidas, che è uno dei pochissimi hospice pediatrici, quindi da 0 a 17 anni, d'Italia, e il primo della Lombardia. Abbiamo con noi il presidente della Vidas, che è noto a tutti, Ferruccio De Bortoli, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, perché ci permette secondo me di parlare anche in questo periodo molto particolare in cui Milano è stata molto sotto pressione, De Bortoli, no? Dell'importanza di questa, come lo vorremmo chiamare, mecenatismo, bontà, il cuore di Milano, spesso si ricorre a questa immagine, no? Che c'è sempre stata una sorta di bontà di fondo che forse si accompagna a questa ipercinetica di una città ipercinetica che va, corre, però ha sempre un settore per pensare alla filantropia, al bene, o no? Sì, e soprattutto in questo periodo di difficoltà, io ho visto moltiplicarsi tante iniziative di solidarietà nei confronti delle persone che sono purtroppo anche nella nostra città diventate più povere. A favore degli anziani soli che sono stati colpiti dalla pandemia e spesso si sono sentiti abbandonati. È un tessuto sociale meneghino, ma non soltanto meneghino, diciamo italiano, perché il nostro paese ha un capitale sociale straordinariamente ricco, di questo dobbiamo dircelo, dobbiamo essere fieri di questo. È che ci si dà una mano e non si dimentica nessuno. Ecco, una delle grandi qualità di Milano, ma del capitale sociale italiano lombardo, che non si dimentica nessuno. Poi si possono anche commettere degli errori, per carità, qualche volta si è persino arroganti nell'essere così, nello sbandierare alcuni meriti della città. Non bisogna ovviamente tralasciare gli errori e le eventuali colpe, però questo tessuto ha resistito, questo tessuto si è addirittura arricchito nel momento di maggiore difficoltà della città. Sì, perché si dice spesso in questo periodo siamo capaci a farci del male, a parlare male di noi stessi, del nostro paese, della nostra realtà, però si mantengono anche vive molte realtà solidali che anzi vengono rinforzate in questi periodi di difficoltà. È un po' l'animo, duplice dell'italiano, che è in grado di essere un po' cattivo ma anche buono in fondo. E diciamo che è una caratteristica di noi italiani è che siamo sempre molto solidali con la nostra comunità di riferimento, un po' meno con lo Stato, con la nazione, insomma c'è questa parcellizzazione del bene che forse ci impedisce di trovare delle economie di scala, insomma, nell'aumentare il livello di bontà e di reciproca assistenza. Ecco, noi siamo fatti di divisioni, di dualismi e di contraddizioni, insomma. Qualche volta cerchiamo di vedere l'aspetto positivo. Sì. Sì. Quali bambini potranno essere ospitati all'interno di questa struttura? Nel caso Sollievo Bimbi, che compie un anno in questi giorni è una struttura che fu voluta fortemente dalla nostra fondatrice Giovanna Cazzaravazzoni, che aveva già dato vita alla Casa Vidas, che sorge accanto alla Casa Sollievo Bimbi, dove vengono ospitati i malati terminali che sono assistiti insieme alle loro famiglie. Casa Sollievo Bimbi accoglie non solo bambini in età pediatrica che purtroppo sono in una condizione terminale, ma anche le loro famiglie, quindi non si spezza mai questo legame familiare, anche perché il bambino deve essere assistito e deve avere sempre il conforto della propria famiglia. E la particolarità di Casa Sollievo Bimbi è che ospita l'intera famiglia, ricrea l'ambito familiare proteggendolo all'interno di una struttura che non ha eguali nel nostro paese, che è una struttura di avanguardia. E da questo punto di vista, De Bortoli, cosa vuol dire essere presidente di Vidas? Ricordiamo appunto, cioè, ci si occupa in Vidas di quell'ultimo tratto della vita di tutti noi, prendendosi cura delle persone fino alla fine. È un qualcosa che ultimamente forse ha acquisito un significato ancora più profondo, no? Ma il mio mestiere, come sai, come sanno gli ascoltatori, è un altro, insomma, e quindi io sono così stato coinvolto da Giovanna Cavazzoni, nel senso che anche quando ero direttore del Sole 24 Ore facevo parte del consiglio di questa istituzione milanese importantissima, che insomma che è stata all'avanguardia nel fare una battaglia civile per la dignità delle persone, che sono persone anche quando si è persa la speranza di poterle curare. Fino a poco tempo fa il Servizio Sanitario Nazionale semplicemente le mandava a casa, le famiglie erano a disposizione, capacità di affrontare le terapie del dolore, che invece vengono assicurate da Vidas e da tante altre associazioni sul nostro territorio nazionale che sono specializzate in cure palliative. E anche le strutture di cure palliative sono state coinvolte nell'emergenza Covid, e con tutta questa struttura, diciamo, di volontariato, di imprese sociali, che è quella grande rete di solidarietà di cui parlavamo all'inizio, che nel caso milanese, ma non soltanto nel caso milanese, penso a quello che è successo a Bergamo, a Brescia, ha funzionato e ha funzionato molto bene. Certo, io ricordiamo sono 40 anni di Vidas e un anno nello specifico di Casa Sollievo Bimbi. Oggi alle 21, per chi vorrà, sui social di Vidas ci sono Ale Franz, c'è Fabio Volo, c'è Paolo Iannacci, Alberto Fortis, c'è ovviamente Ferruccio De Bortoli, la mia amica Petra Loregian di RDS, insomma ci sono tante personalità che si uniscono per celebrare questo momento, ricordare questo momento. Ce ne vorrebbero i più in tutta Italia, De Borte, un'ultima cosa, forse di strutture così. Anche qui forse il federalismo sarebbe bello se venisse applicato in ogni regione, almeno ci fosse una struttura come questa. Sì, io penso che il terzo settore stia facendo molto e da questo punto di vista credo che vada anche aiutato, perché il terzo settore coinvolge 6 milioni di volontari in Italia, che arrivano laddove lo Stato non può andare, insomma, quindi è un aiuto del privato a far sì che il livello di assistenza, in particolare per gli anziani e per le persone che sono colpite da alcune patologie irreversibili, possa essere quello di un grande paese civile che assiste fino all'ultimo, che dà importanza ai piccolissimi segni di solidarietà e difende la dignità delle persone, fino all'ultimo. Questo credo che sia un faro della nostra civiltà del quale dobbiamo essere fieri. Sì, orgogliosi. Grazie allora, direttore. Grazie. So, Leonardo, un'ultima domanda. Le 21 no, oggi ci volete sui social dividersi. Purtroppo in alcune fasce della popolazione il terzo settore non è sempre ben visto a causa di alcuni episodi che in alcune specifiche circostanze sono verificate. È importante ridare credibilità al terzo settore onesto, come è nella gran parte dei casi, insomma. Credo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Su questo De Bortoli vuole fare un commento? No, devo dire che insomma è chiaro che insomma cose che vanno male ci sono in qualsiasi attività, insomma, però io devo dire e mi rammarico anche come giornalista di non aver dato peso a tutto questo esercito del bene che c'è in tutto il nostro paese, che fa del welfare privato. Ed è stato ed è un ammortizzatore sociale straordinario, perché non c'è attività, cultura, sanità, tutto il resto, in cui non ci siano delle associazioni private, poi qualcuna si comporterà male, insomma, però guardiamo la stragrande maggioranza di questo terzo settore, che è il settore della comunità. E se noi avremo la possibilità di ritornare a crescere, di guardare con maggiore fiducia al futuro, lo dovremo anche alla presenza di queste comunità coese, che sentono l'onere, il dovere della partecipazione e della responsabilità nei confronti degli altri. E questo, se ci pensate, è anche il grande lascito positivo della quarantena. E noi ne usciamo se siamo tutti responsabili nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri, cioè se cerchiamo in qualche modo di rendere più forte questo legame delle comunità. E attraverso le comunità che noi riusciremo a creare nuovo reddito, nuovo lavoro dello Stato, nel mercato, ma il terzo settore, che è un settore vivo, è un settore che arriva laddove gli altri non riescono ad arrivare, arriva dove lo Stato non riesce ad intervenire, insomma credo che vada tenuto presente, vada aiutato, anche perché noi siamo un paese generoso nelle donazioni e generoso anche nella quantità di persone, finisco, che danno senza volerlo far sapere, danno il loro tempo a beneficio degli altri. Esattamente, quello che si diceva all'inizio, cioè che sembriamo cinici, sembriamo pronti, ma poi in realtà il bene c'è e non finisce mai. Grazie direttore, io lo chiamo sempre direttore comunque, grazie presidente della Vidas Ferruccio De Bortoli, che è stato qui con noi alle 21 oggi, per chi vuole questo evento lo trovate sui social della Vidas. Allora, andiamo a sentire le informazioni della borsa, poi riprendiamo da Maurizio da Milano, se ha un attimo di pazienza, e poi insomma so che Manera non sta più nella pelle, devo leggerti un altro tratto di questo libro, Io sono al potere, perché lo so, ti vedo proprio, sei lì quasi fremente, in attesa. Un attimo, Leonardo, guarda come ironizza sulle mie sul mio essere lettore. Poi te lo mi presto, anche umanamente da, te cosa. Lo presto, mamma mia, guarda, va bene, mamma, Sparagnino, te lo libri. Presto. Ne vuoi consigliare uno oggi per rubare il posto a Alessandro Tedesco? Ne ho uno bello, sì. Allora... Dopo la borsa, tienilo lì. Uno bello, magari poi chiamiamolo a te, vediamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, c'è Maurizio da Milano. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Innanzitutto sono contento di poter parlare con lei e con Manera, perché vi ascolto tutte le mattine e mi condizionate la vita. Spero in peggio. Scherzo. No. Poi però volevo fare un'osservazione che riguarda il discorso che state facendo stamattina sul ponte sullo stretto. Io sì. Ieri ho sentito la conferenza stampa, sì. E l'ho seguita. La roba di Conte, la conferenza stampa. Chiedo scusa, io sì. Non sono... No, ma prego. Ma anche l'emozione, comunque, niente. Praticamente una giornalista ha fatto una domanda e alla fine della domanda ha buttato lì questa cosa dello stretto. Sì. Conte ha risposto che prima c'è da fare tutta una struttura, cioè c'è da fare un sacco di cose, tra l'altro l'alta velocità in Sicilia, sì, un sacco di cose, e poi alla fine ha detto se poi ci si siede a un tavolo si parla anche dello stretto. Come la state mettendo voi, sembra, io almeno questo è quello che percepisco io, sembra come se lui abbia fatto una conferenza stampa parlare... No, è questo che passa, io chiedo scusa, ma almeno questo è quello che... Fa bene a precisare, non ha fatto una conferenza stampa sullo stretto del ponte, sullo stretto, no, assolutamente, parlando di tutte le cose, rispondendo alla domanda, certo ha detto sul ponte, sullo stretto questo. Certo, c'è da dire che... poi la risposta, dire valuteremo, ma non è la questione, non mi interessa dire è pro o contro il ponte sullo stretto, è che il ponte sullo stretto è l'emblema che ci trasciniamo da 200 anni, 2000 anni forse, ogni tanto viene fuori e qualcuno dice ma vedremo, non so, forse, non lo so, uno potrebbe anche dire il ponte sullo stretto non si fa, per quel che mi riguarda, per quel che riguarda il governo attuale, poi i governi successivi, chi lo sa. Comunque c'è Leonardo che freme. Sai che... Cosa vuoi, che ti consigli qualche libro? No, sì, devi consigliare tu un libro intanto, vediamo un po'. Oggi che cosa ci consigli? No, poi freni perché ti legga un altro pezzo. Tre libri. Ah no, leggimi un altro pezzo. Perché non ce li hai? No, allora, io sono il potere, ne hai parecchi, vabbè, adesso ce li dici, io sono il potere, queste confessioni di un capo di gabinetto, sì. Per esempio era celebre Renzi, sai quando approvano una cosa salvo intese, c'è questa formuletta, salvo intese, cioè vuol dire che il testo praticamente non esiste, in genere è una riga e in Consiglio dei Ministri non sono d'accordo su niente e allora l'approvano salvo intese. Ecco, Renzi ci aveva preso gusto, diceva datemi solo i titoli, ordinava, perché aveva promesso una riforma al mese e non intendeva ritardare di un giorno. Quindi prima ancora che cominciasse il Consiglio dei Ministri aveva già le slide e se ne infischiava delle virgole, dei testi legislativi. Gli bastava scendere in sala stampa, appositamente allestita, per declamare, telecomando in mano, le magnifiche sorti delle sue riforme. Salva qualcosa, sblocca qualcosa, magia del salvo intese. Poi si faceva salvo intese in Consiglio dei Ministri, cioè c'era la cornice, c'erano le slide, ma... praticamente i testi venivano fatti poi postumi, venivano elaborati, eccetera. E siccome mi chiedevi di Di Maio, questo capo di gabinetto parla anche di Di Maio, che a volte i testi non venivano neanche consegnati al Quirinale e poi quando il ministro è disperato, è non informato o sconfitto, tira fuori la famigerata manina. L'entità misteriosa che a suo parere ha ricamato troppo e male. L'evocazione della manina è caduta nel grottesco il 18 ottobre 2018 quando Luigi Di Maio si presentò nel salotto di Bruno Vespa per denunciare che una manina aveva manomesso il decreto fiscale. Irritazione al Quirinale, scandalo istituzionale. Io, dice l'autore, mi son fatto una sacca, una ricca risata. Subito si è scoperto che non c'era neanche il testo mandato al Quirinale. Poi tutti i ministri hanno confermato che il condono, perché si parlava di condono, c'era sempre stato nel testo, prima, durante e dopo il Consiglio dei Ministri. E via così. Anche oggi non hai perso occasione per dimostrarti nemico dei pentastellati. Dispiace. Non è vero, per la verità ho parlato anche di Renzi, ho parlato anche di altri. Non mi risulta. Vabbè. Non mi risulta. Va bene. Dopodiché? Dopodiché, libri? Se vuoi, consiglio tre libri per tutti i generi. Bene. Per tutti i generi. Allora, il primo per quelli che pensano che viviamo in un momento difficile, che la nostra vita è faticosa, invece basta andare indietro di pochi anni per verificare come fosse molto peggio. Quindi consiglio di Beppe Fenoglio La Malora. La Malora, un libro che racconta di una vita complicata, difficile nelle Langhe. Sì. Ne è uno per i complottisti, per ma quelli tu che l'hai pensano letto? No, qualche pagina. Poi ne è uno per... No, perché... È stupenda questa cosa. Ne è uno adatto ai complottisti, a quelli che pensano che tutto quello che mangiamo faccia schifo. Allora consiglio, sì, quattro sberle in padella di Stefano Carnazzi e Stefano Apuzzo, che ci racconta un po' come sono i cibi che mangiamo. E per finire, e per sono? Conoscere il rapporto... questo non lo so, perché non è che l'abbia... Se vuoi ti leggo la quarta copertina. Si combatte a tavola. La terza guerra mondiale è in corso, si combatte a tavola. Infatti l'alimentazione farcita di veleni è la causa principale dell'insorgenza di malattie, di una crescita sbagliata e della carenza di difese immunitarie. E così via. Quindi per quelli che... E per finire, per conoscere meglio i rapporti sociali, per sapere con chi ci confrontiamo e come, in che modo, consiglio di Eric Berne, A che gioco giochiamo, un classico della psicologia contemporanea. Quindi direi che... Che cosa dice consiglio... Ma delle cose le dice, insomma. E quindi sì, ho dato dei consigli. Anche perché saranno 300 pagine, non penso che sia come questo, il libro di Shining, il mattino all'ora questo in bocca. Questo di Eric Berne sono 220 pagine, sono 220 pagine e parla di tutti i rapporti... Anche... Tutti. Ma sì, per esempio, non è la volontà che mi manca, oppure vedetevela questa tra di voi, la perversione. Di questa è nella terza di copertina. No, sto guardando un po' in mezzo. Ed è molto interessante perché c'è un'antologia di giochi di società, inteso come rapporti sociali, come perché si svolgono, e quindi è un modo di migliorare la propria vita nel rapporto con gli altri. Quello dato avete ascoltato Il cacciatore di libri di Leonardo Manera, tutti i giorni, quando si sveglia in Vestaglia, su Radio 24. Siamo qui, ringraziamo Alessandra Tedesco per la prestigiosa collaborazione che si conclude oggi con Radio 24. Ora non abbiamo più bisogno di te, abbiamo Leonardo Manera a partita IVA, e così si fa. Comunque, la rottamazione. È ininfluente, sì, che io poi li abbia letti completamente oppure no. Già il fatto che io li abbia a casa vuol dire che prima o ma poi... Ma se non sbaglio, l'ultimo libro che hai citato, quello di psicologia, sì, veniva brandito anche da Miriam Lucchetti in una delle ultime sue esibizioni di Tecnica Lucchetti in redazione. Girava con questo libro, dicendo: mi è arrivato questo libro, devo leggere 220 pagine, entro domani devo fare una recensione. Ma lei non si occupa di libri, però era una delle tecniche che più utilizzava per dire che era impegnata dovendo leggere 220 pagine e così non fare nulla. La famosa celeberrima tecnica Lucchetti. Tecnica Lucchetti, esatto. Sì, si sa. Va bene, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi... Ah no, prima vogliamo sentire Oreste da Monza? Ce la fa Oreste? Sono qua. È con noi. Eccolo là. Vai, sono Oreste. Qua. Volevo solo noi siamo qua. Parlare della burocrazia. Un piccolo esempio di dove funziona. Mia figlia qualche anno fa in Svizzera mi sentite? Sì, benissimo. No, è andato un matrimonio. La parola magica Svizzera, adesso so già chi sta esultando. Allora, è andato un matrimonio e arrivati tardi alla chiesa, hanno parcheggiato la macchina in un parcheggio di un condominio. Tutto a posto. Dopo 10 giorni, mio genero viene convocato a Losanna da un giudice e che gli dice: scusi, ma lei 10 giorni fa ha parcheggiato una macchina così, così, così. Sì, dice. E non lo contesta, quindi no, allora sono 36 euro di 36 franchi di multa. E dice: ma scusi, franchi, ho preso mezza giornata di ferie per venire qua, ma non potevano mandare un vigile a darmi la multa? E sa, forse le cose cambieranno, ma comunque per adesso è così. Quindi in Svizzera la burocrazia è quasi di più che in Italia, ma funziona tremendamente bene. No, esatto, funziona bene, però lei dice non è vero che gli svizzeri con un click... E qui ci sarebbe materiale per convocare in studio qualcuno, e chissà se c'è spazio, e chissà se ha voglia, chissà se ha coraggio soprattutto, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccolo là. No, ma allora ce l'hai il coraggio? Oreste da Monza per me è diventato il nuovo eroe anti-svizzero. Contro il mito della burocrazia efficiente svizzera, Oreste da Monza dice che è stato convocato suo genero, ha preso mezzo giorno di vacanza, potevano mandargli una multa a casa, invece no, attaccare! Gli svizzeri l'hanno voluto lì per umiliarlo, per attaccare! Incastrarlo, Oreste. Per attaccarlo. Oreste. Oreste. Oh no. Oreste. Oh no. Buongiorno. Oreste. Buongiorno a tutti. No. Niente, Oreste mi ha fregato perché sì? L'ho messo personalmente io in onda. Ho detto dai un paio di minuti di elogio alla Svizzera. Parlerà bene di Svizzera. Credevo di aver capito dal concetto che ha riferito al centralino che fosse un elogio o della Svizzera. Invece no, mi ha assolutamente intortato. Sono tutti così. Anch'io ho fatto venire qui a Radio 24 Manera pensando che fosse dalla mia parte, ma poi il veleno è sempre nella coda. Dopo ti si rivoltano contro. Così. Comunque a riprova che Oreste la dice giusta fino a un certo punto, io sono reduce da una vacanza di 4 giorni in canton Appenzello. Sì. Vorrei dirvi che è un cantone dove tuttora nel 2020 l'ultima domenica di aprile si vota per alzata di mano, quindi non mi venite a parlare di burocrazia, cioè c'è però la democrazia quello lì è più stato convocato da un giudice a Losanna, ha preso di persona, mezza giornata ma di fede. Perché c'è ancora un rapporto umano persona? In Svizzera, sì, perché sì, ci sì. Si vuole vedere in faccia, chi ha fare due chiacchiere, dire in Italia allora sì, siamo esperti, facciamo le code, facciamo gli assembramenti, stiamo lì ore negli uffici pubblici a farci delle gran chiacchiere. Vai a lavorare, vai a lavorare. Buona giornata. Vabbè, Oreste da Monza, grande, grande, altro che l'efficienza svizzera. Guarda qua, è arrivata una mail, ti ringrazio caro Alessandro di aver parlato del libro Io sono il potere, il libro che ho letto dopo una recensione apparsa sul Sole 24 Ore. Mi sono sempre chiesta perché nessuno ne avesse ancora parlato, visto che sembra un libro da conoscere, perché fa venire un po' di mal di stomaco se uno si addentra nei palazzi della politica. Ma adesso, signori, è il momento di viaggiare. È tornato il 3 giugno la libertà e quindi il nostro signor Vagone cosa fa adesso? Buongiorno, sono Francesco Vagone. Come sapete, buongiorno dottor Minion. Ho un'agenzia di viaggi. Scusi, adesso non è che ci tengo, però Milan è facile come la squadra di calcio. Esattamente, dottor Minen, ho un'agenzia Fiacci, la Facone Tour International, ma i viaggi stanno riprendendo pacatamente. Allora, nella ma uno studio di, ripartire... di logopedia, lei non ha mai pensato invece di aprire uno studio di logopedia? No. Non mi è mai stata fatta annotare nessuna carenza e quindi posso proseguire felicemente con la mia moto... consueto di espormi. Allora, nell'attesa di ripartire con la mia agenzia Fiacci, la Facone Tour International, sì. Ho cambiato lavoro e momentaneamente mi sono reinventato scienziato, diplomato su Facebook ancora. Con 110 like, specializzato in TikTok. Sì. Allora, do consigli da scienziato, consigli spiccioli. Sono scienziato da social, ma spesso si sa che è proprio il consiglio spicciolo che è più efficace di un altro consiglio che invece è meno spicciolo. Lo spicciolo serve nei momenti in cui pensi che non servirebbe. Allora, oggi, dopo questa introduzione esplicante, voglio immediatamente parlare del nostro coronavirus, il corona che da molto tempo sta cartellizzando tutta l'attenzione del nostro paese e anche internazionale, in the world. Allora, questo mio consiglio suggerisce l'osservazione scientifica alla mia esperienza nell'agenzia Fiaggi, quindi scienza e Fiaggi insieme. Partiamo dall'osservazione scientifica. Sappiamo che la diffusione del coronavirus è stata contenuta in alcuni paesi, per esempio la Grecia. E allora la domanda che sorge spontanea è: perché in Grecia il coronavirus non c'è o c'è molto limitante? Perché? Semplice. Limitante. Perché nella lingua greca ci sono tante K e quindi per pronunciare la K non si fanno tanti sputacchi. Quindi le persone greche quando parlano non sputaccano e in questo modo non contagiano le altre con il culona. Io ho fatto anche delle prove. Davanti allo specchio ho provato a dire sirtaki e suvlaki davanti allo specchio e non è partita tutto nemmeno posto. Una gocciolina. Sirtaki, non escono goccioline. Poi ho detto pollo è partita una gocciolina sulla P di pollo. Questa è un'indicazione scientifica molto importante, molto confermata dal fatto che anche nell'antica Grecia il coronavirus non c'era. E non allora c'era. Qual è la soluzione, dottor Minen? Cambiare il nostro alfabeto e introdurre molte più K anche nelle parole italiane. In questo modo potremo parlare vicino alle persone senza spargere il coronavirus. Quindi, per esempio, invece di appendere, che evidentemente spargerebbe le goccioline, dovremmo dire accendere con due K. Invece di appollaiato potremmo dire accollaiato, invece di appendino e candino. Ecco, in questo modo non ambronderemo istologicamente le goccioline. Sì. Comunque, nelle ultime settimane noi stiamo vivendo che questo culone fortunatamente gira meno anche da noi in Italia e possiamo ritornare a viaggiare, soprattutto in Italia. Allora, magari è meglio, torni. Sì. Perché non visitare Beronzi Superiore, un piccolo gioiello della penisola? Sai che io sono contento. Contento che torna al suo vecchio lavoro, Vagone. Ma Beronzi naturalmente è il luogo ideale per ogni vacanza. Per quale motivo? Perché si trova a 3 ore dal mare e a 3 ore dalle montagne. Quindi ogni mattina puoi decidere se andare al mare o in montagna con una piccola escursione. E quindi è a 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, 3 ore dalla collina e da lì puoi partire. Ma soprattutto perché a Beronzi ti aspettano tante attrazioni, tra cui Mariano, l'uomo che mette solo magliette con scritte simpatiche. Per esempio, fate l'amore, non la dieta. L'alcol fa male, ma lo perdono. Uomo de panza, uomo de sostanza. 100% ignorante, oppure finché c'è birra c'è speranza. Quindi potrete divertirvi con le simpatiche magliette di Mariano quando tornate dalle vostre escursioni al mare o in montagna. Quindi mi raccomando, please visit Beronzi Superiore. Magari verrò anch'io per fare qualche consulenza tecnica scientifica sul coronavirus. Naturalmente. Sei un Vagone, la ringraziamo moltissimo. Io, guardi, sono felicissimo che lei abbandoni questa carriera così improvvisata da scienziato, torni al suo lavoro, torni a far visitare Beronzi Superiore, che siamo tutti contenti così. Aspetto tutti a Beronzi, venite a trovarmi nella mia agenzia Superiore. Superiore. Beronzi va Superiore, bene, la ringraziamo. Con lei diamo l'appuntamento a domani, venerdì, ore 9. Noi ci saremo con un Nessuno 100 Milan. E voi, chi lo sa? Ciao, a domani. Nessuno 100 Milan.